La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al libro Grandi illusioni di Giuliano Amato, che è oggi ospite ai nostri microfoni. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato a come il nostro destino è stato plasmato dal pianeta su cui viviamo. I cambiamenti del pianeta hanno effetti determinanti e fondamentali su ciò che accade a noi come esseri umani. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Siamo in recessione e questa non è certo una novità, lo siamo già da qualche anno. In realtà da oltre un decennio l'economia italiana è bloccata. Siamo giunti a un crinale, perché se si guarda la storia del nostro paese dal secondo dopoguerra in poi, non possiamo non ribadire che il nostro paese nel breve volgere di pochi anni era riuscito ad acquisire un ruolo centrale all'interno del panorama internazionale, grazie anche a tassi di crescita di tutto rispetto. Sì, c'è stata davvero una grande Italia, e non solo in termini economici. Poi è cominciato il nostro declino, insieme a quello di altri paesi europei. È un declino che ha molte ragioni, comprese le illusioni che abbiamo nutrito per anni, rifiutandoci di guardare in faccia la realtà e di fare i conti con essa. Temi di grandissima attualità che tratterremo insieme oggi e sabato prossimo in compagnia di un libro e soprattutto di uno dei due autori, Giuliano Amato, già presidente del Consiglio e più volte ministro, presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Giuliano Amato ha appena pubblicato per Il Mulino, insieme ad Andrea Graziosi, il libro Grandi illusioni ragionando sull'Italia, un libro che fa riflettere proprio sulle grandi illusioni che abbiamo coltivato negli ultimi decenni e che ora sono spazzate via dalla profondità della crisi nella quale siamo tuttora immersi. Dopo aver superato negli anni 50 anche il 6-7% l'anno, la crescita del nostro prodotto interno lordo è stata pari al 5% dal 1961 al 1973, con un tasso di inflazione attorno al 5% e una spesa pubblica che si aggirava sul 30% del PIL. Dal 1974 al 1980, quando la società italiana era comunque ancora dotata di energia, la crescita è stata del 3,3%, ma l'inflazione superava il 16% e la spesa pubblica il 36% del PIL. Negli anni 80 la crescita si è fermata al 2,4%, mentre l'inflazione calava al 9,2% e la spesa pubblica superava il 45% del PIL, a conferma che buona parte della ridotta crescita era dovuta a una spesa statale in deficit. A partire dal 1992 la crescita è stata in genere inferiore al 2%, con una tendenza a schiacciarsi sull'1% in certi periodi e saldi negativi in alcuni anni, mentre l'inflazione calava al di sotto del 3% e la spesa pubblica si aggirava tra il 45 e più del 50% del PIL. Si tratta di dinamiche che ripetono con 20 anni di ritardo quanto era accaduto alle economie socialiste, a cominciare dalla metà degli anni 60. Buonasera e benvenuto, presidente Amato. Buonasera a lei e grazie. Allora, il suo libro, scritto con Andrea Graziosi, Grandi illusioni, ne abbiamo illustrato sinteticamente il contenuto ai nostri ascoltatori, ora cominciamo con lei questa sorta di viaggio in due puntate, partendo proprio dalla scelta del titolo. Grandi illusioni, perché grandi illusioni, presidente Amato? Beh, perché sono state illusioni e sono state grandi nel senso che hanno condizionato la nostra vita, hanno contribuito ad impostarla, hanno contribuito a rendere deludente e a volte difficile da correggere ciò che è venuto dopo, perché eravamo ancora sotto l'influenza delle grandi illusioni. Di che si tratta? Fondamentalmente di due nostre aspettative. La prima aspettativa è stata quella che la crescita, che è quella economia piena di vita che come una pianta che sta proprio bene, la vedi piccola e poi cresce, cresce, cresce, come se accadesse per un processo naturale, come se appunto non potesse essere che così, perché tu l'annaffi e questa diventa sempre più grande. Ecco, abbiamo pensato che lo sviluppo economico, l'aumento annuale della ricchezza che noi possiamo produrre, quella cosa chiamata PIL, la ricchezza che perciò, o comunque il benessere, o comunque la vita migliore che si poteva così assicurare a noi, alla maggior parte di noi, fosse diventato negli anni che seguirono la ricostruzione qualcosa senza fine, destinato ad essere così. Ci dimenticammo nel vedere in questo modo la crescita che la nostra stessa storia, ma non solo essa, anche quella di tante altre parti del mondo, aveva vissuto lunghi, anche lunghi periodi di crescita, seguiti poi da periodi di declino. C'è un bellissimo libro di Giorgio Ruffolo, Quando l'Italia era una grande potenza, che ricorda non soltanto ovviamente l'antica Roma, che è la prima fase storica alla quale pensiamo parlando di Italia grande potenza, ma anche i secoli delle nostre repubbliche marinare, 200, 300, 400, che oltre ad essere delle repubbliche marinare sono dei mercanti, dei banchieri, degli artigiani, di questa Italia che insomma nel 500 è all'avanguardia del mondo, è ricca, è prospera, e poi soltanto due secoli dopo sarà un paese arretrato, in declino, ridotto all'analfabetismo, con un alto tasso di mortalità infantile, del quale Leopardi ci parlerà all'inizio degli 800 con toni addirittura disperati. E poi però venne l'unità d'Italia e da allora l'Italia seppe crescere e migliorare, e questa crescita sembrò essere irresistibile negli anni del cosiddetto miracolo italiano. Esatto, anni 60, in particolare anni 50, anni 60, Presidente Amato. In quegli anni, sì. E in quegli anni noi giustamente, sia chiaro, giustamente ponemmo le basi di uno stato sociale all'altezza dei tempi, allargando quelle prime piattaforme che erano state costruite nell'era giolittiana all'inizio del secolo, quando era nata la previdenza, quando era nata la prima assistenza per l'invalidità e gli infortuni, quando si erano ridotti gli orari di lavoro. E allora ora con gli anni 60 partì un sistema pensionistico molto più generoso, poco dopo negli anni 70 facemmo il servizio sanitario nazionale, introducemmo forme proprio anche di assistenza sociale, di assistenza in caso di disoccupazione, ma anche qui pensammo che i diritti che stavamo costruendo erano diritti il cui costo poteva crescere nel tempo, così come poteva essere necessario per farli sviluppare sempre di più, tanto c'era uno sviluppo, certo, che veniva crescendo sempre di più. E questa è una delle grandi illusioni. E questa è la seconda grande illusione, che certo, i diritti, una volta che li abbiamo stabiliti con legge, e se la legge lo dice, l'economia viene dietro per alimentarli di risorse finanziarie. Ecco, ci siamo accorti con gli anni più recenti che la crescita non è naturalmente sempre costante, ma che ci possiamo trovare in fasi di stagnazione, addirittura di recessione, e allora ci troviamo a ricominciare da capo, e che i diritti tutti vanno difesi e forse modificati nella loro impostazione proprio per essere difesi, perché non possono contare su un raccolto ogni anno più ricco del raccolto dell'anno prima. Fondamentalmente sì, sta qui il cuore delle grandi illusioni. Le grandi illusioni, Presidente, anche poi se parliamo degli anni 70, vediamo che lì c'è proprio una scelta di strategia e di politica economica, perché anche altri paesi affrontano grandi e notevoli spese per sostenere il sistema di welfare state. Sì, bravo, però noi decidemmo che il welfare state doveva allargarsi, ma non si dovevano aumentare le tasse né tributi per mantenere questa maggiore spesa. Esatto. E così facemmo la scelta del welfare indolore, che non poteva essere così. Il welfare costa, in ogni caso costa, e perciò esige una redistribuzione della ricchezza prodotta, e lo strumento di cui lo Stato dispone per questa redistribuzione è naturalmente il fisco. Qualcuno deve pagare qualcosa di più perché chi ha di meno possa avere qualcosa, a volte, non di più, ma qualcosa. E noi questo cercammo di non farlo. Creammo in questo modo, se vuole, una terza illusione, che si potesse crescere la spesa pubblica senza tener dietro con le entrate all'incremento delle uscite. E così si creò una forbice nella quale venne tagliuzzato e poi fatto sparire il risparmio pubblico, e si aprì il grande capitolo del grande debito pubblico. Ecco, infatti di questo poi magari parliamo nella prossima puntata, Presidente Amato. Intanto per questa serata la salutiamo e la ringraziamo molto per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi ascoltato. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato all'impatto dei cambiamenti sull'evoluzione dell'uomo. La potenza del pianeta ha plasmato la nostra storia in modi sorprendenti, ci ha costretto all'adattamento e all'innovazione, e ha trasformato il mondo in cui viviamo. I cambiamenti climatici danno il via alla nascita di nuovi imperi, al diffondersi delle malattie e alla scoperta di nuove terre. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda martedì 26 giugno alle 17.30 su History Channel. Indonesia, 70.000 anni fa. Il Monte Toba, un vulcano sull'isola di Sumatra, erutta. È la più grande eruzione degli ultimi 2 milioni di anni. Miliardi di tonnellate di ceneri finiscono nella stratosfera, oscurando il cielo e provocando il raffreddamento e l'inaridimento della Terra. L'esigua popolazione umana è devastata. Gli scienziati ritengono che il numero di esseri umani sia precipitato da 1 milione a solo 10.000 individui. I superstiti devono adattarsi o morire. Africa centrale, a circa 8.000 chilometri dall'eruzione. Le popolazioni portano avanti faticosamente la loro esistenza da più di 100.000 anni. Vivono in piccoli gruppi, anche di sole 10 persone. Si incontrano di rado e non condividono idee. Sono prossimi all'estinzione. E poiché le piante muoiono, gli animali da cacciare diventano scarsi. Ian Morris, Università di Stanford. Gli esseri umani non hanno mai vissuto niente di simile all'eruzione del Monte Toba. Devono trovare nuovi modi di affrontare il mondo che li circonda. I sopravvissuti all'eruzione del Monte Toba si sono battuti contro le forze devastanti della natura e hanno vinto. Ma ora il pianeta riserva un'altra estenuante sorpresa. Europa, 25.000 anni fa. Il mondo è nella morsa di un'era glaciale. Piccole variazioni nell'orbita della Terra comportano un drastico calo della temperatura. Se gli uomini non stanno al caldo, muoiono. Per cui trovano una soluzione che cambierà la vita per sempre. James Makes, direttore della rivista Popular Mechanics. Quando il clima inizia a cambiare, è difficile che gli animali si evolvano abbastanza rapidamente da adattarsi. Ma gli esseri umani non devono adattarsi biologicamente, non devono aspettare l'evoluzione del corpo. Possono cambiare comportamento. Per sopravvivere al freddo, gli uomini hanno bisogno di vestiti migliori. Finora hanno contato su larghe pelli di animali, ma sono inefficaci. Il calore si disperde. C'è bisogno di qualcosa di più caldo. Ispirata dalle lance appuntite, scaturisce una nuova idea. L'ago. Una minuscola scheggia affilata di osso con un impatto enorme. Ora, gli uomini possono cucire vestiti più aderenti che permettono loro di sopravvivere al gelo. Dopo migliaia di anni di freddo, le calotte di ghiaccio si ritirano e le temperature aumentano in tutto il globo terrestre. Turchia, 8000 avanti Cristo. Il mondo è più caldo e più umido. C'è cibo in abbondanza. Piante ed erbe commestibili crescono floride. Gli uomini approfittano di questa abbondanza, creando i primi insediamenti stanziali. Poi, qualcuno che rimarrà sempre ignoto nella storia si accorge di poter piantare i semi e raccoglierne i frutti l'anno seguente. È un punto di svolta. La rivoluzione agricola investe tutto il mondo. Si formano villaggi che diventano città. Nascono imperi. 2 milioni di anni di caccia e raccolta sono finiti. Il cambiamento del clima ci ha portato a creare la civiltà. Ma siamo ancora vulnerabili alle forze della natura. Il Sole. Circa 144 milioni di chilometri dalla Terra. Le macchie solari emanano una quantità enorme di energia nello spazio, provocando un notevole aumento della temperatura sulla Terra. La siccità in Asia scatena una lotta violenta per i terreni, che cambia il destino dell'umanità. Mongolia. Intorno al 1200 d.C. Una vastissima prateria che ricopre più di 1600 chilometri del territorio asiatico. I pastori nomadi se ne servono per nutrire il loro bestiame. Ma ora la loro vita verrà totalmente sconvolta. Sam Sheridan, autore di Cuore Guerriero. La siccità disidrata gran parte dell'Asia e distrugge i pascoli. I mongoli sono costretti a entrare in una competizione feroce per le risorse. Ha inizio una guerra spietata fra le tribù per i pascoli rimasti. Nel 1206 un condottiero riunisce le tribù sotto il suo comando e ne esce vittorioso. È conosciuto col nome di Gengis Khan. Conduce il suo esercito di uomini disperati attraverso l'Asia e l'Europa, saccheggiando città e conquistando vasti territori. Alla fine della sua campagna si lascia dietro più di 40 milioni di morti. I mongoli fondano un impero sterminato. Ma la brutalità di questa conquista ha un risvolto positivo. I mongoli realizzano una vasta rete di rotte commerciali, collegando il mondo come non era mai avvenuto. Invenzioni orientali come la polvere da sparo e la carta giungono in Occidente, cambiando il nostro modo di vivere. Europa, 1342. I cambiamenti climatici continuano a tenere in una morsa il pianeta. La siccità in Asia è seguita da anni di piogge torrenziali in Europa. Paesi e città vengono allagati, terreni agricoli distrutti. La carestia uccide più di un quarto della popolazione. Le condizioni meteorologiche estreme favoriscono il diffondersi di una terribile malattia. La peste. Il male, noto come morte nera, è una catastrofe per l'Europa. Ma contribuisce incredibilmente alla scoperta del nuovo mondo. Le alluvioni e la carestia hanno lasciato la popolazione europea indebolita e soggetta a malattie. Ian Morris, Università di Stanford. Quando arriva la morte nera, l'Europa ha già subito da una generazione condizioni meteorologiche terribili. La popolazione è più debole e più affamata di quanto non sia stata per secoli, per cui è il peggiore momento possibile per un'epidemia di peste. Il contagio ha inizio in Asia. Ma a causa delle piogge e della carestia, l'Europa ne viene colpita più duramente. In furia per 2 anni. E quando la morte nera finalmente si placa, è deceduto più di un quarto della popolazione europea. Ora vi sono grandi appezzamenti di terra che rimangono liberi. E con meno bocche da sfamare, il cibo è di nuovo abbondante. La diminuzione della forza lavoro aumenta la richiesta di mano d'opera. I salari sono alle stelle. C'è un boom economico. I banchieri diventano ricchi. E i ricchi promuovono una nuova era di esplorazioni. Questa porterà a una scoperta che cambierà la mappa del mondo. Le Americhe. Ora siamo noi a dominare alcune forze della natura. Ma il futuro è incerto. Sam Sheridan, autore di Cuore Guerriero. È chiaro che molte cose possono andare storte e che siamo vulnerabili quanto lo erano i nostri antenati. Le forze del pianeta possono ancora gettare la nostra vita nel caos più totale. Ma, come in passato, possono costringerci ad adattarci e ad uscirne ancora più forti. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Mankind, le 12 chiavi del successo, i cambiamenti climatici. Regia Youth Ballantyne, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda martedì 26 giugno alle 17.30 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.